before I give a talk. It'll be on karma. Un paio di cose da dire prima del discorso riguardo al karma. I hope you found the Mahasi talk instructive. Spero che abbiate trovato il discorso di Mahasi istruttivo. Sì. That was the opening talk he gave to beginners. Era il discorso di apertura che dava ai principianti. Now the fact is, of course, that whether you're a beginner or long established, it's the same technique. Ovviamente, sia che tu sia un principiante o uno che pratica da molto tempo, la tecnica è sempre la stessa. Yeah. The voice. Oh yes, it was Sandra would have done that. Yeah. For the English speakers, I had a Burmese voice. Allora, questa era la voce di Sandra, ma per chi parla inglese ce n'è uno con una voce Burmese, di Birmania. Di Birmania, o Myanmar, now. But that wasn't the Mahasi, eh? Ok, questa voce che si sente però non è quella di Mahasi. Just a friend. The other thing that came up in one of the interviews was when an emotion comes up, and there's the reaction. Allora, alcune cose che sono venute fuori nei colloqui individuali, quando viene una emozione, poi c'è una reazione. Sometimes they just disappear. A volte se ne vanno. So you can't do this plunging in, you see. E quindi non ci si può fare questa, non si può fare questa sorta di entrarci dentro. Not to worry. Yeah? Ma non c'è da preoccuparsi. Usually the ones that stay are things like depression, anxiety, peacefulness, sense of joy. E di solito quelle che rimangono sono la depressione, l'ansia, il senso di pace, senso di gioia. But other ones like anger, lust, romance, they tend to just disappear once you observe them. Invece altre come la rabbia, la... Erotic, not lust, erotic. Sorry? Not lust, erotic. Another word, erotico. Il desiderio erotico, yeah, tendono a scomparire una volta che si osservano. Just keep that in mind when you're meditating, that's all. E tenetevelo in mente questa cosa mentre meditate. So this evening I want to talk about karma. Questa sera parliamo del karma. And just to correct or at least make clear what the Buddha's teaching is. Per correggere o meglio per chiarificare che cosa è l'insegnamento del Buddha. There are two stories which point out karma as it's often understood by people who are brought up as Buddhists. Ci sono due storie per spiegare come capito il karma dalle persone che sono cresciute con un insegnamento buddista. There's a story attached to one of the verses in the Dhammapada. Ce n'è una che è attaccata a uno dei versi del Dhammapada. The Dhammapada is a collection of verses, teachings from the Buddha. Il Dhammapada è una collezione di versetti degli insegnamenti del Buddha. And it's the most translated work of all the Buddhist literature. Ed è il più tradotto di tutto l'insegnamento del Buddha. I think there are over 150 translations. Ci sono forse più di 150 traduzioni. And the story is this. Questa è la storia. There's a ship and it's sailing. The wind is high. C'è una nave che sta salpando, il vento è forte. And the ship suddenly stops. The ship suddenly stops. La nave si ferma. For no reason whatsoever. Per nessuna ragione comprensibile. So this confused the captain and the sailors. E questo confonde il capitano e i marinai. Luckily there were a group of monks on board. Per fortuna c'era un gruppo di monaci a bordo. Who had certain powers. Che avevano certi poteri. Yeah. So the captain approached the group of monks. Quindi il capitano si avvicina al gruppo dei monaci. And asked them, why is it that the ship is not moving? E gli chiede, com'è questa storia che la nave non si sta muovendo? So the monks went into a deep, concentrated state. Allora i monaci entrano in uno stato di concentrazione profonda. And when they came out, they told the reason for this to the captain. E quando uscirono da questo stato, dissero la ragione di questa cosa al capitano. The problem was his wife. Il problema era la moglie. In the past life she had drowned many little dogs. Puppies. Nella vita precedente lei aveva affogato molti piccoli cagnolini. And the only way this ship was going to move is if he got rid of his wife. E l'unico modo per far muovere la nave era di liberarsi della moglie. So he had no choice but to throw her overboard. E quindi no, lui non aveva scelto se non di buttarla fuori bordo. And as soon as she left the ship moved on. E appena lei lasciò la nave, la nave cominciò a muoversi. The next little tale is we had an elderly man who used to look after our section of the monastery. We had an old man who looked after. La seconda storia è che avevamo un uomo, un vecchio che guardava il monastero. And I asked we were having a conversation. With this man. Lui stava parlando con quest'uomo. And it came up in the conversation. I asked him, why do you think Jesus Christ was crucified? E lui gli chiese, che ne pensi, perché Gesù fu crocifisso? I said, well, he must have done something terrible in his past life. E lui disse, beh, io penso che deve aver fatto qualcosa di terribile nella sua vita precedente. These are two wrong understandings of karma. Questi sono due modi sbagliati di intendere il karma. One of my students had throat cancer. Anche uno dei miei studenti aveva un cancro della gola. And she lost her voice, huh? E lei perse la voce. And somebody said to her, oh well, you must have done something terrible in your past life. E qualcuno gli ha detto anche a lei, devi aver fatto qualcosa di terribile nella sua vita precedente. I said to her, well, something may have been done terrible to you in your past life. E lui gli disse, probabilmente qualcosa di terribile è stato fatto a te nella vita precedente. Because, you know, we carry trauma, you see? Perché ora ne porti ancora il trauma. But even this is wrong understanding. Ma anche questo è una comprensione sbagliata. The Buddha said, actually, if you try to work out your karma, it would drive you mad. Il Buddha disse che in realtà se cerchi di capire il tuo karma diventerai pazzo. Yes, that's the consequence of your actions. Le conseguenze della tua azione. So why is that? Perché è così? Yeah. So first of all we have to understand the Buddha's understanding of how things happen. Allora, prima cosa bisogna capire che il Buddha Buddha's understanding of how things happen. Cerca di capire come accadono le cose. Okay, so this is known, the word in Pali is iddhapaccayata. La parola Pali è iddhapaccayata. Iddhapaccayata. And it means the law of this and that. Che significa la legge di questo e quello. Ah, which sounds really simple. Che suona assai semplice. When the Buddha, after his enlightenment, went to teach his five companions. That was his first teaching. Quando il Buddha, dopo il suo, la sua illuminazione, andò a insegnare ai suoi cinque compagni i suoi primi insegnamenti. One of his one of these former friends who was now fully liberated. Uno di questi amici del passato che ora era diventato completamente liberato. Yeah. Nome Asaji. He was wandering through the countryside. Stava vagando per la campagna. And Sariputta saw him. Sariputta lo vide. Sariputta is the first chief disciple of the Buddha. Sariputta era il primo capo il discepolo più importante del Buddha. Yeah, he had two, Sariputta and Moggallana. Ce ne aveva due, Sariputta e Moggallana. Moggallana was understood to have understood the Dharma the most deeply. Moggallana si diceva che aveva capito il Dhamma nel modo più completo. After the Buddha. Dopo il Buddha, naturalmente. And Moggallana had many powers. Moggallana aveva anche molti poteri. And he saw Asaji and he was taken by his demeanor, the way he looked, you know, the way he walked. Allora vide Sariputta. Sariputta vide Asaji e fu colpito dal suo portamento. And so he asked him who his teacher was, you see. E allora gli chiese chi è il tuo insegnante. And after the conversation, Asaji told him what the Buddha taught. E dopo una conversazione Asaji gli disse quello che aveva detto il Buddha. So he said, of all things, di tutte le cose, that from a cause arise, of everything that from a cause arises, tutto ciò che nasce da una causa, the Tathagata has explained that cause. Il Tathagata ha spiegato questa causa. Tathagata means the transcendent one. Che Tathagata significa colui che è trasceso o che trascende. Atrasceso. That's how he referred to himself. È il modo in cui lui is an appellative of the Buddha, isn't it? Yes, that's what he called himself. Sì, è come il Buddha chiamava se stesso. He also teaches how they cease to be. E lui anche insegna come cessano di essere. Ah, so this is the teaching of the great recluse. Recluse. Questo è l'insegnamento del grande recluse. Eremo. Ah, dell'eremita. Eremita. Del grande eremita. Sì, ecco. So this became formulated as the law of this and that. Questo diventò formulato come la legge di questo e quello. So this is the law. Questa è la legge. When this is, that is. Quando questo è, quello è. From the arising of this comes the arising of that. Dall'insorgere di questo viene l'insorgere di quello. When this isn't, that isn't. Quando questo non è, quello non è. From the cessation of this comes the cessation of that. Dalla cessazione di questo viene la cessazione di quello. Now, yesterday or 2 days ago we did the dependence origination. Ieri o 2 giorni fa abbiamo fatto la Paticca Samuppada. L'originazione dipendente. Paticca Samuppada means conditioned origination. Che appunto significa l'originazione condizionata. So that formula you see in those sentences. Questa formula si vede in queste frasi. Dependent on ignorance, conditioned volitional conditioning habits arise. In dipendenza dalla ignoranza nascono le abitudini. Ah. And later on, because ignorance has been destroyed, the habits are destroyed. E più avanti dice, quando l'ignoranza è distrutta, a causa di questo le abitudini sono distrutte. Ah, Niroda, it's come to an end. Come to an end. Okay, so here we have, first of all, an understanding of cause and effect over time. Allora, prima di tutto abbiamo una comprensione di causa effetto nel tempo. Ah, so if you buy a lottery ticket and you win a prize, you can see some connection. Se tu compri un biglietto della lotteria e vinci un premio, puoi vedere che c'è una connessione. Ah, ok. But the connection is very small. Eh? Ma è una connessione piccola. Ah, because you had no control over the computer. Perché non hai controllo sul computer. Ah? So if you think my buying the ticket made me win the prize, this is superstition. Se tu pensi che il mio atto di comprare il biglietto mi ha fatto vincere il premio, questa è superstizione. Ah. And of course if you don't buy the ticket you don't win anything. Ma naturalmente se non compri il biglietto non vinci nulla. Now that cause and effect we understand just in our daily lives, we can see that clearly. Questo è una causa effetto che si capisce nella vita ordinaria, lo possiamo vedere chiaramente. Now, if the whole of the universe were just the past moving into the present, there would be no creativity. It would be just repeating itself. Eh? Allora, se tutto l'universo fosse solamente il passato che si muove verso il presente, sarebbe ripetitivo, non ci sarebbe creatività. The other understanding is that things happen now because other things happen now. L'altra concezione è che le cose succedono ora perché le cose succedono ora. Ah, so since we've come together, we can have this course. Since we've come together, we can have this course. Ah, dato che noi siamo qui insieme, possiamo fare il discorso. Yes, if you all went away now, there'd be no course. Se voi andaste tutti via, ora non ci sarebbe motivo. Ah, so again, if this were the rule of the universe, then you could understand there would be just chaos. There'd be no order. Se questa fosse la legge dell'universo, si capisce che sarebbe solo caos, non ci sarebbe ordine. Ah. So, if we take a single moment, this moment now, se noi prendiamo un singolo momento, questo momento di ora, every one of us have our own line of decision making that brought us to this place. Ognuno di noi ha la sua propria linea di la sua propria linea decisionale che lo ha portato ad essere proprio qui. And when all these lines of actions, which is the proper translation of karma, come into a present moment, then you have some creativity. Quando tutte queste linee d'azione, che azione è la vera traduzione di karma, arrivano qui nel momento presente, abbiamo la creatività. And because we don't know what lines of action will meet in the present moment, we don't actually know what's going to happen. Poiché noi non sappiamo quali linee d'azione sono qui convergono qui nel momento presente, we don't know what's going to happen. E quindi non sappiamo quello che succederà. Now, in an ordered society like ours, you can pretty well predict what's going to happen. In una società, diciamo, ordinata come la nostra, si può in qualche modo predire che cosa succederà. Ah, so for instance, tomorrow morning, we presume that we will have breakfast. Domattina si presume che ci sarà la colazione. But if you were in a war zone, if you were in Syria, You could not live on that presumption. Ma se voi foste in una zona di guerra, ad esempio in Siria, non potreste essere sicuri di questa presunzione. And of course we have to remember we are, you know, one breath away from death, so we don't know when that's going to happen either. Bisogna anche ricordarci che noi siamo solo un respiro lontani da questo, quindi non sappiamo mai. Dalla morte. Da? From death, dalla morte. Dalla morte. Quindi non sappiamo. Ah. No. Dalla Siria o dalla morte. Forget Syria. Syria means death in a way. Okay. Right, okay. So what I'm trying to get across is that in the Buddha's understanding we live on a knife edge. Quello che cerco di spiegare è che nella concezione buddista noi viviamo sulla lama del coltello. Yeah, sì, okay. So then having understood that there are reasons why things happen. Avendo capito questo, ci sono ragioni per cui le cose succedono. So it's not only our actions that make things happen. Non è solo le nostre azioni che fanno succedere le cose. And in Buddhism there are five laws which are similar to ours. Nel buddismo ci sono cinque leggi che sono simili alle nostre. So the first one is known as the law of heat. La prima è conosciuta come la legge del calore, l'energia. Yeah. And this equates to our physics and chemistry. È simile a quella della nostra fisica e chimica. Of course, their understanding of these things was in a sense pretty primitive. Allora il modo come capivano queste cose era in un certo senso assai primitivo. For instance, if you rub two sticks together, of course a fire will arise. Se tu strofini due stecchi, alla fine verrà fuori il fuoco. So our understanding of course is that the friction is causing the heat and then there's fire. Il nostro modo di capire è che la frizione causa il calore e questo causa il fuoco. But in their understanding, when you rub the stick, you create the condition for the fire element to come towards the stick. E nel loro modo di capire, quando tu strofini gli stecchi, si creano le condizioni affinché l'elemento fuoco arriva a riscaldare gli stecchi. And then when the fire goes out, the same amount of energy goes back into that passive state. Quando il viene fuori il fuoco, quando lo stesso quantità di energia se ne va into passive state, just energy passivo, in uno stato passivo. Just as a little aside, just as something extra. Qualcosa in più. When the scriptures talk about the consciousness dying out. Quando le scritture parlano della coscienza che svanisce. You have to understand it in the terms of this physics. Dovete capirlo nella terminologia di questa fisica. It's the attachment which makes consciousness grab hold of something, just like the fire element grabs hold of something. Allora, è l'attaccamento che fa in modo che la coscienza si afferri un oggetto, così sì. Come è l'elemento fuoco che afferra lo stecco. And when you have non-attachment, this consciousness is released into its passive state. It doesn't die. E quando non c'è l'attaccamento, viene rilasciato. Non attaccamento. attachment. Non attaccamento. Quando non c'è l'attaccamento, ecco. Quando c'è il non attaccamento, ecco. Questo viene rilasciato in uno stato passivo. Non se ne va. Non se ne va. So, for instance, you know, well, the earthquakes that Italy suffers from. I terremoti di cui l'Italia soffre. Ah. So these are not caused because people in the past have done terrible things. Eh? E questi sono. Are not done because people in the past did terrible things. Non è che succedono perché le persone nel passato hanno fatto cose terribili. Ah, so if you happen to be there at the place of the earthquake and happen to be injured or killed, that's not your personal karma. Allora, se ti capita di essere lì, nel posto dove avviene il terremoto, se ti capita di essere ferito, ucciso, non è il tuo karma personale. So that's one law which is understood affects us. The Buddha understood that was one law that affects us. Allora, il Buddha capì che questa legge ci affects us. Ci influenza. Ah. The second one is Bija, which means the seed, the lord of the seed. Questa Bija significa la legge del seme. Ah, and this is hereditary. This is genetics. È la genetica, l'ereditarietà. Mm. So, if somebody is born with a physical disability. Se qualcuno nasce con una disabilità fisica, That has nothing to do with what they did in the past life either. E anche questo non ha niente a che vedere con quello che hanno fatto nella vita passata. Ah. So for instance some of you will remember the thalidomide crisis in the 60s. Qualcuno si ricorda forse degli anni 60 la crisi del talidomide. Sì, sì. Thalidomide crisis. Focomelici. Ah, where that's right, where women, pregnant mothers were told that this would stop feeling sick and awful. Veniva dato alle donne incinte perché si gli veniva detto che questo era un medicamento che serviva per non farle star male. Sì. But of course, the children were born without arms, without legs. It was terrible. E a causa di questo, i bambini nascevano senza braccia, senza gambe, forse. So we cannot say that this was because, you know, this person did something terrible in the past life. E non si può dire che questo è il motivo è che questa persona aveva fatto qualcosa di terribile nella sua vita passata. Mm. And this is also, you know, true on a social level too. E questo è anche vero su un livello sociale. Ah. Just because you happen to be born, shall we say, in India as a lower caste, it doesn't mean to say that you've done something bad in your past life. Anche ad esempio se tu sei nato in India in una casta bassa, questo non vuol dire che hai fatto qualcosa di brutto nella tua vita passata. And this is something that Buddhism and Hinduism lack, which you know, which our Christian background, Judaic Christian background, has developed. Allora, questa è una cosa che manca nel buddismo e nell'induismo e che è sviluppata invece dal nostro retroterra cristiano-giudaico. Ah, which is social justice. È la giustizia sociale. Ah, it's quite. Buddhist countries tend to be better. Buddhist countries tend to be better. Le paesi buddisti tendono di essere migliori. Ah, because they don't have this very cast iron caste system. Buddhist. Ah, ok. Perché non hanno questo sistema delle caste. Ah. So that's the second law, yeah. the genetics. Questa è la seconda legge, la genetica. The third one is citta, which means which we would translate as psychology. La terza è citta, che noi potremmo tradurre qui come psicologia. And that also translates into sociology, because sociology is a communion of minds. E si traduce anche con la sociologia, perché la sociologia è la comunità delle menti. So what we were discussing last on dependerigenation also includes the psychology of the Buddha. Quello che abbiamo discusso l'altra volta sulla originazione dipendente include anche la psicologia del Buddha. The psychology of the Buddha. We've touched upon it, how the mind perceives things. Noi abbiamo guardato come la mente percepisce le cose. So that we have this base of sensation. Abbiamo questa sensazione di base. And then from that we develop concepts. E da questa noi sviluppiamo concetti. And we develop habits dependent on certain understandings. E abitudini che sono dipendenti da certe comprensioni. So you can see that this is a psychology of. It's an understanding of how the mind works. Questa è una psicologia, un modo di capire come funziona la mente. But remember, it's a very narrow psychology. Ma è una psicologia molto stretta. In the sense that it's only dealing with this problem of suffering, of unsatisfactoriness. Sì, stretta perché tratta solo del problema di come ci si rapporta alla sofferenza. Unsatisfactoriness. E la insoddisfazione. There's no developmental psychology, for instance. Non si è sviluppata come una psicologia mentale. For instance, how a child develops, there's nothing. Non c'è nulla su come un bambino si sviluppa. Anything like that. And there's no real psychology around mental illness. E non c'è nessuna psicologia riguardo alle malattie mentali. Except to say that this is the far end of suffering. Eccetto dire che questa è la parte più estrema della sofferenza. In Buddhist countries, if somebody loses their mind, if somebody becomes psychotic, nelle paesi buddhisti, se qualcuno perde la testa diventa psicotico, there really is no effort to try and help them. Non fanno sforzi per aiutarli. If you're suffering from clinical depression. Se si soffre di depressione in senso clinico, you might go to a monastery and they would just help you to stay alive. Potresti finire in un monastero dove ti aiutano giusto a rimanere vivo. There was a case in my own monastery of a monk. C'è stato un caso proprio nel mio monastero di un monaco. He went to the teacher and said that he was bored with watching the breath. Andò dal maestro e gli disse che si era annoiato di guardare il respiro. I can't understand it. Non posso capire questo. So the teacher, unfortunately, instead of guiding him to look at boredom, il maestro, sfortunatamente, invece che guidarlo a guardare alla noia, kept giving him new things to investigate. E continuava a dargli da investigare delle nuove cose. But this, of course, in turn became boring. Ma alla fine anche queste diventavano noia. And eventually it got so bad that he became deeply depressed. Alla fine questo peggiorò talmente che diventò profondamente depresso. So he left the order and went into the psychiatric ward of the mental home. E quindi lasciò l'ordine e andò a finire in un reparto psichiatrico. Where they were able to help him. where they were able to help him. Ah, dove lì erano capaci di aiutarlo. And he came back and joined the order. E allora ritornò e ritornò nell'ordine. So you have to understand the psychology is very, very pointed towards understanding suffering and the end of it. E quindi bisogna capire la psicologia è molto puntata sul fatto di capire la sofferenza e la fine della sofferenza. And in a sense there's an understanding that there are certain illnesses that will take lifetimes to sort out. In un certo senso c'è una comprensione che certe malattie ci vorranno vite per lifetimes, vite intere per essere capite. To sort out, to sort out, guarire, to resolve, resolve. Mm. Sì. We had a member of our vihara who was very self-destructive. C'era un membro del nostro vihara che era molto autodistruttivo. He even carried a rope in his car, ready to hang himself. E si portava le corde in macchina per essere pronto a impiccarsi. When he was very bad, he used to go to this other center where he would find friends and they would support him and he would overcome his depression. E quando stava molto male andava in un centro dove c'erano degli amici che lo aiutavano e lo supportavano e quindi lo aiutavano a superare quel momento di depressione. But one day he went there and there was nobody there. Una volta andò là e non c'era nessuno. So they found him hanging in the barn. In the bar. Barn. They found him hanging in the barn. Lo trovarono impiccato a barn. Where you keep la muccia? Nella barn. Oh, ok. Nella stalla. Not in the pub. They found him hanging in the barn. Lo trovarono impiccato nella stalla. Ah. So I said to my teacher, I said, what is the consequence of somebody hanging themselves? E allora io chiesi al mio maestro, qual è la conseguenza per uno che si impicca? He said, oh, he'll keep doing that for at least 100 rebirths. E lui disse, ma lo dovrà fare di nuovo per almeno un centinaio di rinascite. So my immediate response was, rubbish. Il mio risponso immediatamente fu stronzate, sciocchezze. But then when I considered the tremendous act of will that's needed to kill yourself. Ma quando ho considerato l'atto, la tremenda forza di volontà che serve per uccidersi. You can see that in some future life, because of his conditioning, he would set up a similar situation. This is the problem of habits. Vedi che, se consideri questo, vedi che nelle prossime vite, a causa del suo condizionamento, lui rimetterà insieme le condizioni per questo. È il problema delle abitudini. Jung said something about repressed emotions. Jung ha detto qualcosa delle emozioni represse. He said repressed emotions will manifest as fate. Lui ha detto che le emozioni represse si manifesteranno as fate. Fate. Ah, il destino, sì. Interesting, eh? Because unwittingly, you see, you are behaving subconsciously in a way which is being guided by these habits. Perché senza saperlo, inconsciamente, tu ti stai comportando in un modo che è guidato da queste abitudini. So, that would be more your personal karma, you see. Questo è più il tuo karma personale. So that's the psychology, the law of psychology. Questa era la legge della psicologia. I'll jump to number 5, which are the spiritual laws. Io salto alla legge numero 5, che è la legge spirituale. Which, not surprisingly, is the teaching of the Buddha. E non c'è sorpresa nel scoprire che è l'insegnamento del Buddha. Ah, so the Four Noble Truths, Eightfold Path, and so on. E quindi le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero. Così. So karma then comes down to your actions. E quindi alla fine il karma viene essere espresso dalle proprie azioni. Yeah. And as we've been discussing, an action arises from an intention. E come abbiamo discusso, un'azione nasce da un'intenzione. Ah, so remember, so long as something remains as an intention in the mind, nothing has happened. E ricordate che fino a che l'intenzione rimane come un'intenzione nella mente, niente è ancora successo. Ah, but as soon as you empower it, then you've created an action. E al momento che gli dai potere, crei un'azione. And there's nothing you can do to stop the consequences. E a quel punto non c'è più niente che puoi fare per fermare le conseguenze. Ah. So, if you're talking to somebody and you don't recognize the irritation that's coming up. Se tu parli a qualcuno e non riconosci l'irritazione che ti sta avvenendo, and very quickly you begin to talk in an angry way, e molto velocemente cominci a parlare in modo arrabbiato. So the other person, of course, usually responds in an angry way. E allora di solito anche l'altra persona ti risponde in un modo arrabbiato. Or, if they don't, they hold a grudge against you. O se non lo fanno, comunque ti tengono il broncio. Ah, so you can see your action, the action of irritation, has produced a situation, a certain type of relationship. E quindi si può dire che l'azione dell'irritazione ha prodotto una situazione, una certa relazione. Now, an action goes inward into our psychology and it also goes outward into the world. Allora, un'azione va verso il dentro nella nostra psicologia, ma va anche verso il fuori nel mondo. Now, when you do something, shall we say, in an angry manner, quando si fa qualcosa in modo arrabbiato, you are feeding this attitude and this emotional baggage of anger. Stai nutrendo questa attitudine e questo bagaglio emozionale di rabbia. Ah, and you don't know what the effect of that will be. E non sai quale sarà l'effetto. So you can understand that a person has there was a case in England not so long ago. C'è stato un caso in Inghilterra non molto tempo fa. Where a mother and son came into the petrol station to buy petrol. Madre e figlio andarono in una stazione di servizio a comprare la benzina. And at the same time, two men came in. Ma allo stesso tempo arrivarono due uomini. And for some reason, some argument arose. E per qualche ragione nacque una discussione. Ah, and in this particular case, these two men killed this man. E in questo caso particolare questi due uomini uccisero quest'uomo. Ah, so you can understand we don't know how much anger is in our system. Quindi non possiamo sapere quanta rabbia è nel nostro sistema. And so we don't know what conditions can make this anger just blow out into a rage. E quindi non possiamo sapere quali condizioni faranno scoppiare fuori tutta questa rabbia. Ah, you see, it's terrible, eh? So what this is teaching us that, you know, we have to be careful. Every time we act in an unwholesome way, we're feeding into our unwholesomeness and we don't know what that will produce in the future. E quindi bisogna capire che tutte le volte che ci comportiamo in un modo non salutare, questo sta nutrendo la nostra parte non salutare e non sappiamo che cosa ne verrà fuori all'esterno. Mm. And it's the same of the action in the world. It's the same. La stessa cosa l'azione nel mondo. Ah, because when you create an action, it goes into this matrix of actions around you. Quando voi create un'azione, questa azione finisce in questa matrice di azioni tutto intorno a voi. Even in physics, even in the weather, we have this what's it called? Where small conditions. The butterfly effect, thank you. L'effetto della farfalla. You see, just a small condition of a butterfly wing, because it's supported by conditions, ends up as a storm in another part of the world. Cioè, si dice che anche una piccola condizione creata dal battito dell'ala della farfalla, supportata da altre condizioni, può causare una tempesta in qualche altra parte del mondo. Yes, but looking at it in a slightly more hopeful way. Guardando a questo in un modo un po' più speranzoso. A person might see somebody on the street, a homeless person. Una persona potrebbe vedere un senza casa, un uomo senza casa, un homeless in strada. And just as it were that moment to offer them some coins or a sandwich. E questo potrebbe essere il momento per offrirgli un po' di monete o qualcosa da mangiare. Just in that moment there might be a connection between you and what homelessness means. E in quel momento ci potrebbe essere una connessione fra te e il significato dell'essere senza casa. And this drives you towards creating a charity or doing something. E questo ti potrebbe portare a creare un'organizzazione charity, un'organizzazione di supporto. O comunque fare qualcosa per questo. Ecco. Sì. So we don't know what the effects of a good act will be upon us. It might change our lives. Noi non sappiamo quali sono gli effetti di una buona azione, potrebbe cambiare la tua vita. And it's the same when you do something good in society. È lo stesso quando fai qualcosa di buono nella società. If you just by doing something of benefit to society, you don't know what might flower from that. When you do something into society, sì. You don't know what might grow okay. from it. Quando tu fai qualcosa nella società, no, non puoi sapere che cosa ne fiorirà da questo. Again, we live in this situation of unknowability. E ancora viviamo in questa situazione di non sapere, di non poter sapere. But the basic law remains correct. Ma la legge di base rimane corretta. That when we do something which is wholesome, there are wholesome results. Quando noi facciamo qualcosa di salutare, i risultati sono salutari. And the opposite. Do something unwholesome, there are unwholesome results. E anche l'opposto, se facciamo qualcosa non salutare, i risultati saranno non salutari. È così. Ecco. It's karma. Karma is fourth. What I've just been saying, yeah. So there's physics, genetics, psychology. Fisica, genetica, psicologia. The ethical life. The ethical la vita law, etica, le leggi etiche. And spiritual laws. E le leggi spirituali. Leggi spirituali. It's five laws. Five laws. Cinque. Cinque. Leggi. Yeah. I can only hope my words have been of some assistance. Spero solo che le mie parole vi abbiano un po' aiutato. That by turning our lives towards the wholesome, e che portando la nostra vita verso il salutare, we shall create those conditions necessary. Noi potremo creare le condizioni necessarie in order to liberate ourselves from all suffering. E a far sì che possiamo liberarci da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che dopo. Ecco. Sadhu, sadhu. Grazie. Yes. There are books written on this if you want to take it deeper. Se ci sono. There are books, you mean, yeah. Many books. Yeah. Ci sono molti libri su questo, se lo volete approfondire. Ah, approfondire.